Periferie. Corrispondenze dai confini. Buongiorno e bentrovati a questo primo appuntamento con Periferie, un programma realizzato da Radio 24 in collaborazione con la Fondazione Vodafone Italia per raccontare le realtà delle periferie di alcune città italiane in un viaggio attraverso le difficoltà, le storie e il lavoro quotidiano, le iniziative sul territorio. La prima tappa è Napoli, quartiere Scampia. Il reportage è di Raffaella Calandra. Mio fratello spacciava la base nel palazzo, perché qua a Scampia per la miseramente non ci stava niente. O ne fai voi o fa su mestiere. A quanti anni ha cominciato tuo fratello? 12. Ho conosciuto un ragazzo, no? Hanno fatto fuori. Doppie porte per tutti, soggezione del capo palazzo, da pulsantiere dell'ascensore cancellati, bruciati, perché lì c'è uno che sta per fuggire. Le scritte, io ho visto quella forza scissionissima. Il timore che ci sia qualche altro rivolgimento esiste. Mio padre ha cercato anche lui alle esperienze di questo quartiere. A me piace giocare a calcio e stare insieme alla mia squadra, per me come fosse la mia famiglia. Il sole non bagna Scampia. A volte anche la luce non ottiene il permesso di entrare in certi padiglioni e visto da qui, nell'ombra delle vele, il cielo, lontanissimo, sembra più grigio, sporco e guasto come queste cattedrali di cemento ufficialmente abbandonate, ma di nuovo brulicanti di vita. Perché rimettere le mani sul territorio è segno di potere e nel silenzio di questo deserto sui muri sono ricomparse anche scritte dei clan che nella guerra del 2005 sterminarono quasi un'intera generazione. Forza scissionisti, viva Idi Lauro, si legge qua e là, slogan nuovi che nessuno cancella e che si affiancano a quelli mai coperti. Ma come nei deserti, anche in questo quartiere dormitorio per 80.000 persone a nord di Napoli, capita di vedere come miraggi i pavoni che fanno la ruota nel giardino della parrocchia o di incontrare i tanti ragazzi che dietro un pallone cercano un'altra possibile vita, un'alternativa rispetto all'enorme mercato di droga. Purtroppo la piaga di Scampia dipende dall'ignoranza, perché si buttano nel mondo dello spaccio proprio perché per i soldi facili e per loro poi la consapevolezza che però non fanno un reato, perché vengono cresciuti da padre in figlia da generazioni. In mamma ha una cartella filmata, a finire l'ultimo padre non lo più. Grazie a Dio io tengo ancora. Perché gli altri che vuol dire? Che ce l'hanno in carcere? Oppure... Sì, io non ci sto. Che è stato ammazzato? Sì, non è bello. Per loro. I cattivi sono la polizia perché non la vedono come istituzione, vedono come quella che toglie il posto di lavoro al papà. È difficile, perché pure io tengo affratto, ma troppo mossa ainda. Che ha fatto tuo fratello perché sta dentro? Spacciava la base nel palazzo e hanno preso. Per tenere i soldi più facile. Perché qua a Scampia per la miseramente non ci stava niente. E o ne fai voi o fa su mestiere. Un gufone e ragazzi sono guaiate. A quanti anni ha cominciato tuo fratello? 12. Mo te ne 33. Quanto gli davano? Comincia pochi soldi e poi... Dopo viene il tuo fratello l'anno... Tu sei male. Io ce l'ho con lo Stato un poco, perché hanno permesso che loro si barrengano dentro i palazzi. Quindi automaticamente lo spacciatore, la sentinella fuori, quando avvisa quello dentro, lui sbarra il portone e se ne scappa. Di conseguenza la polizia non lo può beccare. Ho conosciuto un ragazzo, no? Era un bravo ragazzo. Io ho detto, perché fai questo? E lui aveva detto, no, qua a Scampia non ci sta niente, che mi dà la scuola. Ho detto, guarda, tu vai a scuola? Venne alla scuola, tu impari a vedere il mondo. Ha detto loro, qual è il mondo? Questo è il mondo. Allora, alla fine con questo ragazzo è morto. L'hanno fatto fuori questo ragazzo. Mi è dispiaciuto. Io gli ho dato i consigli, cose, però il ragazzo se n'è andato. Quanti anni ci aveva? 16. È brutto perché ci stanno le ragazze che si buttano, è brutto. Mi fa male perché... E hanno la tua età? Sì. Non sapevamo quelli che spacciavano del clan Noschi erano, se erano gli scissionisti o erano i di Lauro. Sapevamo solo che dovevamo scappare. Infatti anche nella salumeria si andava, si faceva la spesa. Era proprio il periodo di una guerra vivevamo. Vivevamo un poco come i cavalli, guardavamo solo avanti e non ci guardavamo né a destra né a sinistra né indietro. Cioè, dovevamo andare sempre avanti. Fanno le vedette, gli spacciatori, gli ambasciatori per O Sistema, i ragazzini di strada qui a Scampia, qui dove sotto i palazzi è ricominciato il contrabbando di sigarette e all'ingresso della metropolitana fiorisce il mercato dei biglietti già usati dei mezzi pubblici. Non li vedi? La data è giusta? La data è giusta, sì. Dove si vede? 4 qua. C'ho pure uno nuovo, però questo è strabano, non so se è buono. Quanto costa questo? Mi danno 50, però non è che pretendo. Il biglietto dura 90 minuti, un'ora e mezza. Facciamo che uno prende la metropolitana a metà di d'oro. Fino a qua ci mette un quarto d'ora. Al massimo mezz'ora. Il biglietto dura ancora un'altra ora. Quindi prendo i biglietti già marcati e le rivendo. Metà prezzo, giusto? Dov'è che vivi? Io a Matera. Di là, diciamo, la polizia si arrabbia un po' di più. I gabinetti qua mi lasciano stare. Non si potrebbe fare, però. Chi non è nelle grinfie del sistema si arrangia come può. Tantissimi a fatica all'alba aspettano un autobus che li porti al lavoro in città. Chi resta cerca ogni iniziativa sbocciata a queste latitudini dove per chilometri non ci sono negozi né banche, ma spicca l'insegna luminosa del punto scommesse. Per avere una scusa per uscire e per imparare un mestiere con entusiasmo, alcune donne ogni mattina infilano l'ago nel laboratorio di sartoria del centro Hurtado, guidato da padre Balletti. Tra damaschi e broccati prendono forma le borse roccia, mentre su un manichino si stende il mantello nero dei cavalieri di Malta, pronto per la consegna. Ma i pregiudizi hanno fatto diminuire invece che aumentare il numero delle collaboratrici. Uscivo da un periodo critico per me, una forte depressione, quindi venendo qua ho cominciato a imparare, a conoscere altre persone. Ho trovato uno scopo per la giornata. E anche un'occasione per imparare. Futuro, ecco, per un futuro. Perché in effetti prima non sapevo neanche tenere un ago in mano. Adesso piano piano sto andando cominciando a usare anche le macchine industriali, quindi già un bel passo. Sto imparando proprio perché in futuro, un domani, per un lavorativo. Il problema di questo quartiere è un po' combattere l'ignoranza, perché se si combatte l'ignoranza e si fa capire ai giovani che un futuro per loro è lo studio, qua si tende molto con la dispersione scolastica. La cultura è che la donna deve stare in casa. Pure io avevo un ragazzo così, però io ho capito che... Che ti diceva il tuo fidanzato? No, se torna a casa c'è il teletonghio di soldi, no. Perché io se faccio una cosa un domani che io voglio aprire una sartoria, capito? Un sogno che io voglio realizzare. Lascia stare che non... No, chi l'ha detto? Sì, è un po' difficile, però io... Il ragazzo dice vai a casa, sai, a casa io no. Invece è stata una ragazza che veniva fidanzata, si metteva qua e quella ragazza doveva cucire. Cioè la ragazza veniva qua a imparare a cucire e... stava il fidanzato qua in sartoria che la sorvegliava. Per gelosia, perché? Sì, per gelosia. Io volevo venire qua a imparare a scuola. Io mi sono lasciato con la ragazza. L'amica manca da faccia, manca un paffinese. È sbagliato così, perché tu, la tua vita... Ci sono molte signore dell'età di 40, 45 che stanno proprio iniziando di nuovo ad imparare a fare queste cose. Perché poi io qualche aggiusto, i bambini, vedi, ricami, faccio abiti da sposa. Ma c'ha un marchio queste borse? Sì, la roccia. Il nome che hanno vicino è la roccia. Che come mai avete scelto questo nome? Ci sembrava, non lo so, è stato più che altro padre Fabrizio, un po' tutti quanti insieme. Forza, come una pietra che non si riesce a rompere, come una roccia, riuscire ad entrare in questo mercato con i ragazzi di Scampia. In certi quartieri anche i gesti più semplici richiedono coraggio o viaggiano sulle ali di un sogno, come quello di chi cerca dietro un pallone la speranza di una nuova vita. Tra qualche istante vi facciamo incontrare i piccoli campioni di Scampia.